Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. È dedicata al tema della fortuna la 10ª edizione del Festival Filosofia, che si svolgerà dal 17 al 19 settembre tra Modena, Carpi e Sassuolo. In esclusiva per il domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il filosofo Remo Bodei traccia una storia dei vari tentativi fatti dall'uomo per prevedere gli eventi e piegare la cattiva sorte. Le più varie strategie sono state da sempre elaborate per sconfiggere l'incertezza dell'avvenire, dall'apprendere le regolarità naturali attraverso la lezione dell'esperienza all'arte della divinazione, dalla statistica al calcolo delle probabilità, dall'analisi del DNA in rapporto al futuro insorgere di certe malattie all'astrologia. Superstizioni, religioni e scienze si sono strettamente intrecciate, facendo oscillare gli animi tra paure e speranze. Per accrescere la prevedibilità dei fenomeni e per controllare il futuro, oltre all'esame dei segni premonitori, nel passato si faceva soprattutto ricorso agli indovini e ai sogni. Si riteneva infatti che per conoscere l'avvenire bisognasse rinunciare alla ragione e alla coscienza vigile, lasciare che qualche dio o demone entrasse in noi. Questo è il significato originario di entusiasmo, attraverso i varchi aperti dalla follia o dal sogno, quando l'anima, presuntamente staccata dal corpo, si esprime in un linguaggio ambiguo ma veritiero che solo appositi specialisti, indovini, sibille o interpreti di sogni, possono decifrare. L'età moderna si apre sotto il segno di una cresciuta imprevedibilità degli eventi, della constatazione che la ruota della fortuna ha cominciato a girare più velocemente. Si assiste allora, come dice Machiavelli, alla variazione grande delle cose che si son viste e veggonsi ogni dì, fuora di ogni umana coniettura, e alla descrizione della situazione storica del tempo da parte di Guicciardini attraverso una metafora marina. Da innumerevoli esempi, evidentemente apparirà a quanta instabilità, non diversamente da un mare agitato dai venti, siano sottoposte le cose umane. Ma proprio per questo si comincia a ragionare esplicitamente sui mezzi per contrastare in maniera efficace il dominio del caso, fregandone o canalizzandone l'impetuosità e sottometterla al potere degli uomini. Assumendo i rischi, il pensiero d'ora in poi gioca d'azzardo e, senza rinnegare se stesso, trova il suo stile in una sorta di divinazione profana che risale da segni e sintomi a una loro probabile interpretazione. Come sostiene il gesuita seicentesco spagnolo Baltasar Garcian nel suo Oracolo, Manuale e Arte di Prudenza, saper ragionare era l'arte delle arti, ma oggi non basta più, bisogna indovinare. È in questa atmosfera di insicurezza, cui corrisponde una sotterranea erosione della fede nella provvidenza, che da un lato nasce il bisogno di certezze indubitabili, sia in campo filosofico con Cartesio, sia in campo scientifico con un balzo in avanti della ricerca. Dall'altro, quasi in forma complementare, sorge il calcolo delle probabilità attraverso lo studio dei giochi d'azzardo, più precisamente dei dadi. L'interesse è suscitato dalle domande poste da un giocatore, il Cavalier de Mer, a Pascal e dalla corrispondenza sullo stesso tema di quest'ultimo, nel 1654, con il matematico. Il calcolo delle probabilità travalica il gioco d'azzardo e giunge alla celebre scommessa pascaliana sull'esistenza di Dio. Contro il culto cartesiano della certezza, l'insistenza di Pascal sulle probabilità ci ricorda qualcosa che vorremmo volentieri dimenticare, ossia che ciascuno di noi è esposto al caso e alla necessità, ai rovesci di fortuna e alla coercizione della natura o alla volontà di Dio. Mediante la raccolta dei dati relativi alla distribuzione della moralità, secondo i calcoli eseguiti da John Grant nel 1662 sulla base dei registri delle parrocchie londinesi e a partire dal 1670 dagli olandesi, il calcolo delle probabilità passa dai giochi d'azzardo all'economia in rapporto alla stipulazione di assicurazioni marittime e commerciali o alla determinazione delle rendite vitalizie. Dall'economia transita nella politica, il senso del termine statistica nato in Germania nella seconda metà del Settecento è appunto quello di raccolta di dati notevoli che interessano lo Stato, e negli ultimi decenni del Settecento dalla politica sfocia nella storia, con Condorcet, il cui pensiero si pone con originalità alla confluenza di due tradizioni di calcolo delle probabilità che in termini moderni si definiscono oggettiva e soggettiva. Attraverso il primo genere di probabilità si stima la frequenza di un evento sulla base dei suoi possibili esiti noti. Se lancio un dado a 6 facce per un numero sufficientemente alto di volte, la probabilità che esca il 3, poniamo, è 1/6. Diremo allora che il singolo lancio ha luogo in condizioni di rischio, in quanto il numero di esiti possibili è sconosciuto. Se si considera invece un'azione qualsiasi, i cui risultati siano ancora indeterminati, ad esempio l'apertura di una salumeria nel centro di una grande città, tale atto avviene in condizioni di incertezza. Per piegare il caso alla volontà dell'agente, occorre operare dei calcoli fondati sulla stima che, soggettivamente, individui o gruppi compiono dei possibili esiti delle loro azioni. Solo l'aumentata quantità di informazione e la garanzia di poter rettificare in itinere il corso delle azioni sono in grado di diminuire l'incertezza. In Condorcet sono l'ignoranza e l'errore che incrementano il potere del caso, ma la principale responsabile è l'ignoranza, in quanto mancata o falsa conoscenza delle cause. Da qui il programma di istruzione da lui abbozzato e realizzato più tardi, dalla scuola elementare aperta a tutti e gratuita all'École Normale Supérieure e all'École Polytechnique di Parigi e ai loro modelli stranieri. Se è vero che più si conosce, più si prevede, allora lo sforzo di abbassare le barriere dell'ignoranza attraverso l'istruzione generalizzata è stato e resta il più grande progetto politico e sociale di riduzione del dominio del caso nella vita degli individui e delle comunità. Anche Max Weber si è opposto al determinismo, cercando però di delimitare l'area dell'accidentale attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un largo spazio di variazioni tra caso e necessità. Prendiamo l'esempio, usato da Weber, del gioco dei dadi. In una situazione normale è assolutamente impossibile sapere con certezza quale dei 6 numeri uscirà nel lancio di un dado. Le possibilità sono equamente distribuite nella frequenza di 1/6 per ciascuna delle facce del dado. Siamo di fronte a una casualità assoluta, ma se spostiamo il centro di gravità, truccando il dado grazie allo spostamento del baricentro, l'accidentale viene modificato. Per analogia, la gradazione del possibile e il favoreggiamento degli eventi è dato dal peso dell'intervento della volontà e dell'intelligenza umane nel ridurre il rischio e l'incertezza. Come possiamo oggi aumentare le nostre capacità di previsione, passare da una cultura della necessità a quella della congettura razionale e della complessità ad essa collegata? L'attuale turbine degli eventi, la moltiplicazione degli attori sociali, 6 miliardi e mezzo di persone distribuite in oltre 200 stati, la volatilità dei mercati finanziari permettono ancora qualche credibile pronostico razionale d'insieme? L'avvenire sembra riacquistare la sua natura di indomabile contingenza, di luogo di esplicazione di forze gigantesche che sfuggono in larga parte al controllo degli uomini. Si mostra cioè in larga parte improgrammabile o, di nuovo, nelle mani di Dio. Ciò aiuta a comprendere l'attuale rinascita delle religioni. Naturalmente abbiamo degli anticorpi, riserve di intelligenza e di volontà ed energie potenziali per reagire. Ci troviamo però dinanzi a una sfida analoga a quella che si presentò all'inizio dell'età moderna, all'imperativo urgente di trovare rimedi pratici e teorici alle nostre incertezze globali, di contrastare la fortuna con nuove virtù intellettuali e morali, anche perché il tempo per rimediare a situazioni di crisi annunciate sembra essere sempre più scarso. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Remo Bodei dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Un merlo indiano dice le parolacce e il tribunale lo condanna. Dare della prostituta a una escort può costare 100 euro di multa e un mese di corso per rieducare il merlo indiano sboccato. È quanto è accaduto a un commerciante di 55 anni di Colico che ha conciliato con il Tribunale degli Animali, l'AIDA, dopo che una entrepreneuse ucraina, Flavia V, 24 anni, ogni volta che entrava e usciva di casa si sentiva apostrofare dal volatile «Buongiorno, put!». Una situazione imbarazzante, visto che il merlo indiano esternava anche quando la giovane si trovava in compagnia di amici o di parenti. Così, il 5 luglio la ragazza si è rivolta all'AIDA e il 27 c'è stata la conciliazione tra le parti. Oltre al risarcimento simbolico di 100 euro, il Tribunale degli Animali di Milano ha dato un mese di tempo al proprietario dell'animale per insegnargli a dire «Buongiorno signorina». E per l'addestramento il merlo indiano è stato mandato oltre Alpe, in Borgogna, in un centro dove vengono rieducati anche i pappagalli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michele Focarete, Merlo condannato alla rieducazione, dal Corriere della Sera dell'8 settembre.